Allora, questo venerdì sera, Shabbat, se Dio vuole, sarà il 15° giorno del mese di Shevat, che è una particolare ricorrenza. Che cos'è la ricorrenza del 15 di Shevat? Ora vedremo nella prima fonte subito. È un giorno che nella Mishnah è chiamato Rosh Hashanah. Capodanno, capodanno di cosa? Leggiamo subito la fonte. La Mishnah di Rosh Hashanah, Aleph, primo capitolo, prima Mishnah, dice la seguente cosa. Arba'a Rashei Shanim Hem. Vi sono quattro Rosh Hashanah, quattro momenti nell'anno che sono considerati capodanno per ricorrenze o cicli specifici. Il primo che ricordiamo è Be'echad Benisan. Il primo giorno del mese di Nisan, il mese in cui siamo usciti dall'Egitto, Rosh Hashanah Melachim, è considerato il capodanno, cioè l'inizio del ciclo, del conteggio degli anni. Per chi? Melachim. Cosa sono Melachim? I re, benissimo. Rashi spiega, Malchei Israel monim lahem mi Nisan. I re di Israele, quando c'è la monarchia in Israele, quando si conta l'anno del re, re e anno de tale, del re tale, cosa vuol dire anno tale? Vuol dire sì, il L'anno del ciclo è da regno, Nisan, eh? L'anno del regno, giusto? Per esempio, se David è proprio il più longevo, mi sembra. sì. Se dovesse essere, per esempio, il re incoronato qualche mese o un mese prima di Nisan, quando arriva Nisan scatta il secondo anno del regno Sì. di, no? Così funziona. Quale pure per gli alberi, Eh? per gli alberi che poi Oh, aspetta, adesso arriviamo. ci ha detto già una volta. E poi la Mishnah dice, dopo la parentesi, Be'echad Be'elul, il primo giorno del mese di Elul, Rosh Hashanah Le'Maaser Behemah. È il capodanno per una questione fiscale, nello specifico della decima della bestia, Behemah. Cioè, visto che esiste la regola di dare in beneficenza di un determinato tipo anche la decima del proprio bestiame in Eretz Israel, allora. Da quando si inizia a formare questo ciclo, diciamo così, fiscale di questa decima, tutti gli animali, tutte le bestie che sono nate dal prima di Elul fino al primo di Elul successivo rientrano in un conteggio e da quello si deve separare la decima. Quello che nasce dal prossimo primo di Elul è un altro conteggio. Ok? Poi Be'echad B'Tishri, Rosh Hashanah L'Hashanim, il primo giorno di Tishri, che è il Rosh Hashanah per eccellenza, che si suona lo shofar, è il capodanno per il conteggio degli anni. E poi qual è il quarto Rosh Hashanah? Gli alberi. Beit Hillel Omrim, Beit Hillel dicono, B'chamisha Asar B'Shevat, il quindicesimo giorno di Shevat, Rosh Hashanah Le'ilan è il Rosh Hashanah per l'albero. Cosa si intende per l'albero? Per ciò che riguarda le inyan mitzvot ateluyot ba'aretz, per ciò che riguarda le mitzvot che dipendono dalla terra si intende non la terra che calpestiamo, la terra di Israele. Ci sono delle mitzvot, come vedremo tra un po', approfondiremo, che dipendono dalla terra, ovvero sono in vigore queste mitzvot solamente in Eretz Israele, non fuori da Eretz Israele. Queste mitzvot sono soprattutto legate a questioni agricole e per ciò che riguarda aspetti che sono legati agli alberi, si fa il calcolo dell'anno partendo dal il ciclo dell'anno inizia dal 15 di Shevat. Approfondiremo tra un attimo, ma prima di arrivarci, mentre questa Mishnah sta parlando di questioni halachiche, tecniche, tra virgolette, che riguardano il comportamento dell'ebreo che è proprietario di alberi da frutto in particolare, in Eretz Israel, i maestri successivi alla Mishnah allargano quel discorso di questo giorno del 15 di Shivat e lo applicano anche all'uomo, a noi persone, che in qualche maniera anche a noi viene applicata questa festività, come se fosse una festa anche per noi. E per questo motivo vediamo che non è proprio una festività solenne, però nonostante ciò un po' di aria di festività si respira, perché come vedremo nell'Alakha, che non si dicono in questo giorno le suppliche, la richiesta del perdono dei nostri peccati, il Tachanun, che normalmente facciamo in giorni feriali, quindi non è un giorno feriale come gli altri. Inoltre troviamo un'altra indicazione, a parte quella di non dire, non recitare il Tachanun, che è interessante, qui citata da una Teshuvah, cioè da un responsum, di Rabbeinu Gershom, un grandissimo maestro medievale, Rabbeinu Gershom, che era soprannominato Me'or HaGolah, illuminare della Gola, dell'esilio, sì. Perché era considerato un maestro di grande autorevolezza ed riconosciuto in quanto tale, soprattutto nelle zone dell'ebraismo all'epoca ashkenazita, cioè Francia, Germania, Italia, eccetera. Vediamo la citazione. Zibur, qualora ci fosse un pubblico, Shebikshu l'Igzor Tanit, che per motivi di difficoltà in cui si trovavano, normalmente si tratta di problemi di carestia o di mancanza di pioggia, volevano questo pubblico istituire un digiuno, Tanit, e questi digiuni seguono un percorso di digiuni, un ciclo di digiuni che va Sheni, Hamishi, Sheni, un lunedì, un giovedì e un lunedì. Tre digiuni sono gruppi di digiuni. Però se dovesse capitare che questo primo lunedì, Pagub Tanit Rishon, il primo lunedì dovrebbe capitare Betet Vav Bishevat, nel giorno 15 del mese di Shevat. Allora lui scrive, è la mia opinione, dati notà, tendo a pensare, Sheatanit Nidchel Shavuaba, che non si inizia in quella settimana che viene il lunedì, nel 15 di Shevat, Ben Kovin Tanit Bo, si respinge l'inizio del Tanit, del gruppo di digiuni, alla settimana successiva, non si fissa il Tanit, il digiuno, iniziando da questo giorno, e qui troviamo la motivazione che adesso lui scrive, molto interessante. Shelo Mazzinu, poiché non troviamo che esiste un concetto di Tanit be Rosh Hashanah, klal. Durante Rosh Hashanah non si digiuna, Rosh Hashanah è un giorno di festa. Utnan, visto che nella Mishnah è scritto Arba Ara Shaishanim Hem, ci sono quattro Rosh Hashanah, di cui uno è il 15 di Shevat, visto che la Mishnah include come in un'unica categoria Nishnu Yachad, insegna insieme in un'unica categoria tutte e quattro i Rosh Hashanah, allora vuol dire che una è simile all'altra, anche le loro norme sono simili, Adinim, le loro norme, Domim sono simili, quindi se non si digiuna nel Rosh Hashanah, che è una festività solenne, eccetera, anche nei Rosh Hashanah minori non si dovrebbe digiunare. Cioè assume uno status di mini festività. È come un Rosh Hashanah. È Rosh Hashanah. E da qui, non da qui, ma anche su altre fonti, si basa la prossima citazione immediata dallo Shulchan Aruch, proprio codificato come norma. Shulchan Aruch troviamo Shenagu Sheloli Polar Pneim, si usa non dire il Tachanun, non dire queste preghiere di suppliche, di Tachanun, che si dicono in tutti i giorni feriali normali, perché non è un giorno feriale normale. Quando è Chamishasar Be'av o Chamishasar Bishvat, due momenti che non sono festa, ma comunque sono mini festività, e cioè il 15 di Av in estate e il 15 di Shevat adesso in inverno. Vale anche per quella Moed che non succederà nulla, vero? Sì, però un'altra cosa, quello già nella Torah è chiamato Moed. Infatti. Quindi non serve, diciamo, non è Minhag. Qui dice, usiamo non dire Tachanun nel giorno 15 di Shevat. Per Chol HaMoed non si dice usiamo, non dire, è vietato dire, cioè proprio un'altra cosa. Ora, un piccolo passo ancora avanti, oltre a non dire Tachanun e oltre a non fissare un digiuno, circa 5 secoli fa, più o meno, troviamo nelle comunità ashkenazite altre ulteriori usanze che riguardano il 15 di Shevat. Troviamo nel Magen Avraham, che è un commentatore dello Shulchan Aruch, e lui è di origine polacca, Minhag Ashkenazim usano gli ebrei ashkenaziti le arbot beminei perot shel illanot. In questo giorno del 12, il 15 di Shevat, di mangiare diverse specie di frutta d'albero, e specialmente quei frutti con i quali è stata benedetta Eretz Israel, come i datteri, l'olive, l'uva, eccetera, eccetera. E solo circa 3 secoli fa, in Eretz Israel, un Rav Sefardita ha stampato un libro sul frutto e sulla frutta e sul 15 di Shevat, e lì ha scritto tutto quello che oggi molti chiamano il Seder o il Tikkun di Tu Bishvat. Questo è ancora più recente rispetto all'usanza di mangiare frutta così in generale, dove lui espone tutto un Seder, appunto tutto in ordine di come e di che frutta mangiare, quali benedizioni o quali, diciamo, quali formule recitare, formule tratte da varie fonti come pezzi del versetti del Tanakh o brani del Zohar, eccetera. E quindi vediamo che nascono sempre usanze legate a questo giorno, in particolare il 15 di Shevat, e che si applica tutto quanto quello che è l'osservanza del giorno, non solamente all'albero, ma anche all'uomo. Venerdì sera quest'anno. Quest'anno viene venerdì sera. Allora, per capire come si applica davvero all'uomo questa cosa e qual è soprattutto il senso, no? La motivazione, prima partiamo dall'inizio. E l'inizio, come dicevo prima, è legato al mondo agricolo in Eretz Israel. Ok, allora, Eretz Israel, bisognerebbe fare una lezione su Eretz Israel, o forse più di una lezione, però la Torah vede Eretz Israel come ovviamente una Eretz HaKodesh, un luogo di santità, terra sacra, quindi che richiede determinati comportamenti, richiede un criterio ancora più elevato di attenzione rispetto a quanto è richiesto da noi quando siamo fuori da Eretz Israel. E tra queste richieste, tra questi requisiti, ci sono molti che sono legati appunto al come trattare la terra stessa e il frutto della terra e tutto l'aspetto agricolo del rapporto con la terra. Uno degli aspetti importanti per favorire una maggiore santità, un maggiore livello, un livello più elevato di, diciamo così, apertura verso il divino, verso il sacro, i criteri che aiutano, i requisiti che aiutano che questo si, che ci si avvicini a questo ideale, sono anche se molto spesso basati su un'apertura sociale, su un aiuto, su un dono, su una disponibilità anche sociale. E di conseguenza la gestione del lavoro agricolo in Eretz Israel, così come la Torah lo richiede da noi, ha molti aspetti di mitzvot che sono mitzvot di doni legati alla terra. Tu hai un pezzo di terra, devi riconoscere che non è solo tuo. Da qui nascono i kibbutz, da qui sono nati, i kibbutz in Israele, con questa forza. Non credo. No. Non hanno una base religiosa, in realtà. Hanno più una base socialista, quello comunista. Sicuramente, ma pensavo ci fosse anche un po' di... Kibbutz è un'altra cosa. È come dire che se noi vogliamo stare su questa terra, usufruire del bene, del frutto della terra, dobbiamo avere un alto livello di quasi tassazione, possiamo dire, nei confronti di HaKadosh Baruch Hu per ciò che lui ci dà nella terra. E l'esempio più classico è quello delle mitzvot della decima e della terumà, del dono che bisognava destinare dal frutto della terra. Quando una persona ottiene un frutto della terra in Eretz Israel, deve dare un dono innanzitutto ai Kohanim. Ricordiamo che la tribù di Levi, di cui fanno parte anche i Kohanim, non avevano un territorio in Eretz Israel. Erano gli altri tribù che dovevano sostenerli. Allora, una forma di questo sostentamento è attraverso il dono della Terumà, che è un dono non definito in quantità e che alla fine gira intorno al 2%, solamente il 2% circa, del proprio prodotto. Ora, dopo che abbiamo prelevato questa terumà e l'abbiamo destinata ai Kohanim, c'è da prelevare un ulteriore 10%, e questo è il classico maaser, la decima, e quella va devoluta ai Levim, a membri della tribù di Levi che non sono Kohanim. Questo dono si chiama Maaser, ma più specificatamente si chiama Maaser Rishon, il primo Maaser, perché c'è anche un secondo Maaser. L'angolo del campo. No? Aspetta, oltre l'angolo del campo. Secondo Maaser si chiama Maaser Sheni, e in un ciclo agricolo di 7 anni, perché poi il 7° anno è l'anno sabbatico, quindi in questo ciclo ci sono 2 modalità di questo secondo maaser. Nella maggior parte degli anni, cioè il primo, il secondo, il quarto e il quinto anno del ciclo di 7 anni, questo maaser sheni bisogna distinguerlo dal resto del prodotto, ma non bisogna donarlo a qualcun altro. Semplicemente bisogna portarlo con sé verso Gerusalemme e può essere consumato solo a Gerusalemme in un certo clima di Kedushà e di purezza. Condiviso con altri, ovviamente, eccetera. Però è vietato consumarlo in maniera normale, deve essere portato a Gerusalemme. Negli altri 2 anni del ciclo della 7 anni, questo maaser diventa non più maaser sheni, seconda decima, ma maaser ani, cioè deve essere destinato ai poveri. E negli altri 5 anni non è che ci dimentichiamo dei poveri, ci sono altri doni che tutti gli anni bisogna fare ai poveri dai campi, per esempio, come dicevate, l'angolo, la pea, quando, e questo non riguarda alberi da frutto, riguarda più frumento, i campi, in questo senso, un angolo del campo deve essere lasciato, quando si fa la mietitura, bisogna lasciare un angolo del campo così, e i poveri hanno diritto, è come se appartenesse già ai poveri. E poi non si raccoglie. Poi c'è l'eket, cioè se durante la raccolta, il raccolto cade, dal raccolto cade una o due spighe, è vietato tornare indietro a prenderle, bisogna lasciarlo per i poveri. C'è anche un'altra cosa che si chiama shichicha, se uno si dimentica un dei covoni nel campo, poi si ricorda, li deve lasciare lì per i poveri, eccetera. Ci sono tante mitzvot in questo ambito, dei campi, dei frutteti, in Eretz Israel. Allora, Adesso possiamo capire meglio cosa si sta dicendo la Mishnah quando la Mishnah ci dice il 15 di Shevat è il giorno in cui è Rosh Hashanah dell'albero. Vuol dire, se c'è un anno che il Maaser è Maaser Sheni e l'anno successivo è Maaser Ani, in questo primo anno, per esempio, il quarto anno del ciclo, il Maaser è devoluto verso se stessi, solo che bisogna portarlo a Gerusalemme, ma il quinto anno, quello successivo, bisogna darlo al povero. Allora, bisogna vedere il frutto quando sboccia. Se sboccia prima del 15 di Shevat, o anche se fiorisce, bisogna vedere, forse è sufficiente la fioritura prima. In quel caso appartiene all'anno precedente, per ciò che riguarda il conteggio del calcolo della decima. Invece se accadesse questo dopo del 15 di Shevat, allora appartiene al resoconto dell'anno successivo, e quindi va ai poveri, non va a Gerusalemme. Al secondo caso. È questo, il caso che sì. Ne parliamo, no? Che sboccia e va ai poveri. Lo sboccio no, in base a... Sì, sì. Sì. In base al 15 di Shevat. Sì. Ah, sì, come preso come riferimento. Sì, oppure anche per il Maaser. In generale, per la prima decima, noi dobbiamo togliere 10%, per esempio, no? Anche per la seconda, 10%. Allora, questo 10% in base a qual è il totale, dal quale poi bisogna togliere il 10%. È vietato, in base a, cioè la data è il 15 di Shevat, quello che è pronto fino al 15 di Shevat appartiene all'anno precedente, quello che invece di dopo appartiene all'anno successivo, ma anche, inoltre per un altro motivo bisogna saperlo, perché è vietato devolvere la decima, prelevare la decima, dai frutti di un anno, successivo, precedente. La decima deve essere tolta dai frutti di quell'anno per la decima di quell'anno. Ma i frutti già colti o che sono già maturi? Che sono maturi, maturi. O che già sono sbocciati. Non colti, possono anche stare lì così. Anche se non sono stati colti. Bene. Ok. Allora, queste sono le norme che gestiscono le regole agricole di Eretz Israel. Cosa c'entrano con una festività per l'uomo? Beh, mangiare, vuol dire stare... Ok, abbiamo feste dove si festeggia il raccolto. Qui non avviene il raccolto. A Sukkot parliamo del raccolto, a Pesach parliamo dell'orzo, a Shavuot, del grano. È tutto bello. Tutti i momenti che la Torah lega anche a ciò che avviene nelle fasi della vita agricola della terra e dell'uomo che lo festeggia e ringrazia Kadosh Baruch Hu per tutto questo. Qui però a livello tecnico è una questione di tempi, di tecnicità, di norme di questo genere. E infatti in origine non era legato a una festività per l'uomo. Con il tempo è nata questa cosa, però ha ovviamente le sue fonti e il suo profondo significato, e quello cerchiamo un pochino di approfondire. In particolare abbiamo un versetto nella Torah, alla fonte numero 3, nel libro di Devarim Shoftim, è scritto quando si è costretti a fare una guerra. E se ci si trovasse a fare un assedio contro una città, allora la Torah dice cosa fanno gli eserciti che fanno un assedio: cercano di distruggere il più possibile tutto quello che si torna attorno alla città. Allora la Torah dice la seguente cosa, vediamo il versetto Devarim Kaf Yutet. Se dovessi fare un assedio verso contro una città per molti giorni per cercare di conquistarla, non distruggere i suoi alberi. porta frutto, colpendoli con l'ascia, chi mi menu tochel, yotò lo tichrot, poiché quella è una fonte di cibo, e quindi non la devi tagliare. E il versetto dice, vechi ha adam etza sade, è forse un uomo questo albero del campo che ti disturba nella tua campagna militare, che lo devi distruggere? Non è un uomo, non è un soldato del nemico, lascia stare l'albero. Questo è il senso letterale di quanto dice la Torah in quel contesto. E da qui poi c'è tutta una mitzvah, lo tashchit, non distruggere, che si applica non solamente agli alberi, ma a qualsiasi bene che è vietato alachicamente, si basa anche su questa indicazione qui, c'è una norma che vieta il disperdere, il rovinare, il distruggere senza... Gratuitamente. Ok? Perché c'è anche la distruzione che è per costruzione, quella è un'altra cosa ovviamente, però una cosa distrutta o rovinata gratuitamente, cioè quando io ero bambino e lasciavo il cibo nel piatto, allora la mamma mi diceva lo tashchit, non puoi, si citava sempre questo versetto, bisogna finire, non si può così buttare, no? Diciamo deriva in senso più largo da questo concetto. Però c'è un po' un twist su questo versetto. Quando dice le parole l'uomo è forse un albero del campo, lo si può leggere anche senza la meraviglia. L'uomo è un albero del campo. Detto così, sta dicendo un'altra cosa. E lo dice il Talmud, che si allude qui, non è, di nuovo, non è il senso letterale, ma si allude a un legame tra l'uomo e l'albero, a una similitudine o delle similitudini che esistono tra l'uomo e l'albero. E questo diventa una base per il concetto di applicare il giorno dedicato agli alberi, il 15 di Shevat, anche a un giorno di lezione per l'uomo e quindi di mini festività. Partendo prima dal concetto che se noi leggessimo questo versetto in un senso senza punto di domanda, senza l'interrogativo, quindi l'uomo è un albero del campo, allora vuol dire che colpire l'albero può essere reso simile al colpire l'uomo. L'uomo è un albero del campo. Non colpire l'albero perché l'albero è un uomo. Detto in maniera più allusiva, però vuole sottolineare ancora di più l'importanza del non distruggere l'albero. Considera come se fosse un essere umano, lo distruggeresti? No? Allora non distruggere anche se solo un albero, solo una pianta. Comunque non va distrutta. Salto un paio di citazioni perché vuoi rimanere un attimo su questa cosa. E abbiamo il commentatore Ibn Ezra, che dice molto semplicemente, cosa vuol dire l'uomo è l'albero del campo? Dice perché la vita dell'uomo dipende da quello che mangia le piante, mangia la frutta, e allora non è così lontano arrivare dall'albero alla vita dell'uomo. E quindi ciò che cresce, il frumento e tutto quanto, quello che è la base della nostra dieta alimentare, comunque è difficile dividerla dall'uomo stesso, distinguerla. E quindi, mentre possiamo dire che la carne non è assolutamente essenziale quanto il vegetale, quindi possiamo dire che la carne è meno essenziale, ma non lo possiamo dire riguardo il vegetale. Se togli la carne, trovi il modo di sopravvivere, togli tutto il vegetale, è difficile la situazione. Quindi la vita dell'uomo dipende dall'albero del campo, o dipende dal mondo vegetale in maniera più larga, diciamo, la cosa. Così dice il commentatore Ibn Ezra. Però, oltre a questo senso più pratico, abbiamo anche il senso più mistico, come sempre. Il senso del significato, prendendo spunto dalle allusioni dal mondo vegetale, come applicarlo al mondo umano, al nostro mondo. Prima di tutto, nella crescita di una eventuale pianta o un albero, qualsiasi vegetale che sia, perché sia davvero una fonte di nutrimento o comunque benessere per il pianeta, eccetera, bisogna investire in quella crescita. Non avviene da solo. Richiede impegno, richiede cura, richiede fatica. Sia l'albero che l'uomo richiedono molti anni di cura per crescere bene. L'animale non è così. Quasi tutti gli animali, dopo un determinato tempo, breve tempo, sono già quasi adulti, riescono a farcela da soli. Ma un albero e un uomo sono simili in questa cosa, che hanno bisogno di più appoggio e più aiuto e più direzione finché arrivano ad essere considerati maturi. Questo perché, da un punto di vista più profondo, il motivo è semplice, perché l'essere animale, l'essere vivente, non è che esiste per fare un frutto, esiste per vivere. Si definisce nel suo essere un essere vivente. Allora basta che vive, basta che sopravvive, questa è la sua definizione. L'albero da frutto è definito dal fatto che produce, non semplicemente che cresce e che esiste come pianta, ma che produce un frutto valido. E l'uomo anche. L'uomo dovrebbe definirsi non dalla semplice esistenza. Esisto, quindi sono, così si dice? Non basta questo, non è sufficiente, perché esisti, sì, ok, allora però cosa ne esce da questa tua esistenza? L'uomo per natura vuole faticare per produrre qualche cosa, per dare qualche frutto, per lasciare qualche cosa al mondo. Quindi è ovvio che si può lasciar crescere così la selvaggina, però non si sa cosa viene fuori. Si racconta che quando gli inglesi hanno conquistato quella parte del territorio che era Eretz Israel da mano degli ottomani, anzi era proprio 100 anni fa, nel 1917, allora hanno chiamato hanno rinominato la via centrale di Tel Aviv, Allenby, per il generale inglese Allenby, che hanno accolto lì proprio questo generale quando entrava in quella zona. E in onore del suo arrivo avevano predisposto tutti i fiori per tutto il viale, partendo dalla piazza che viene da davanti al mare, poi va tutta la viale del Rehov Allenby, è pieno tutto di fiori, belli, predisposti, preparati, eccetera, eccetera. Un minuto prima che è arrivato Allenby con tutta la sua cavalleria, eccetera, è arrivato un vento dal mare e si è portato via praticamente tutti questi fiori, o comunque ha fatto un bel bavelle, come si dice a Roma. E in quei momenti arrivava Allenby. E Allenby vede questi fiori e capisce subito cosa era successo. E dice: ma anche fiori belli necessitano di radici. Che ovviamente, non essendo attaccati alla radice, non hanno nessun futuro. Approfondendo un pochino, esiste nel mondo vegetale qualcosa che noi possiamo vedere come una qualità, diciamo, quella è la natura ovviamente di quel mondo. Però prima di affrontarlo, un piccolo aneddoto. C'era una storia, una volta una storia di una persona che per molti anni, di una coppia che per molti anni non potevano avere figli. Era una famiglia che non avevano molte possibilità economiche. Però visto che esiste un'idea che quando a Rosh Hashanah, il primo giorno di Rosh Hashanah, si legge la storia nel Sefer, nella Torah, si legge la storia della nascita di Yitzhak, che Sarah era sterile e poi miracolosamente ha dato alla luce Yitzhak, e poi si legge nell'Haftarah, nel brano dei profeti, si legge la storia di Hannah. Hannah, che anche lei non poteva avere figli e poi è andata al Mishkan, al santuario, e ha pregato molto molto sentitamente, e quell'anno successivo ha avuto un figlio che poi era diventato dopo il profeta Shmuel, Samuele. Ha fatto un voto poi, il Ha figlio fatto lo un sposava al voto, tempio. sì, al santuario. Santuario, E allora esiste una tradizione che chi ha bisogno di avere una benedizione in questo stesso campo, di avere figli, bene che acquisti il merito di leggere l'Haftarah di Hannah al tempio il primo giorno di Rosh Hashanah. Allora lui, in molte comunità si usa fare l'asta per vendere le mitzvot, l'apertura della challah, le chiamate a sefer, eccetera. E lui, nonostante, come dicevo, non era molto abbiente a livello economico, però ha deciso: io quest'anno lo devo acquistare, questa mitzvah della lettura della Haftarah di Hannah, perché veramente credo che questa cosa può essere una berachah per quello che mi serve. Ok? Hanno fatto l'asta, non era facile. E non era, come dire, era abbastanza caro, però lui ha acquistato quella Haftarah dopo tanti anni che lo voleva fare. E così hanno iniziato a leggere il Sefer. Prima si fa l'asta e poi si inizia a leggere il Sefer. Durante la lettura del Sefer viene da lui una persona. Dice: scusi, vorrei sapere se mi può fare un favore. Dice: sì, cosa è successo? Cioè io nell'asta che abbiamo appena fatto ho acquistato la settima chiamata, scusate, la quinta chiamata. La quinta chiamata è l'ultima prima dell'Haftarah, nel Moed ci sono cinque chiamate. Ho acquistato la quinta chiamata, ma mio fratello ha acquistato la quarta chiamata. La norma è nella Halakha che due fratelli non possono uscire al La Sefer, sa quella. sì, Ah, non lo assolutamente, sapevo. uno Se dopo fosse l'altro. un quasi un salso, mi dà che No, fosse. no, così la Halakha, Shulchan Aruch. Allora, ha detto, siccome tu hai l'ultima, il Maftir, che sarebbe la sesta chiamata in realtà, in quel caso di Moed, allora se potessi farmi un favore, cambiamo, tu prendi la quinta e io prendo l'Haftarah, perché non posso prendere una chiamata se c'è mio fratello che ha la quarta. No. Lui ha aspettato tutto l'anno per acquistare questa Haftarah. Arriva questo all'ultimo momento durante la lettura del Sefer e dice: potresti farmi questo favore? Esce fuori così. Poi, come è capitato che due hanno fatto l'asta, due fratelli, uno acquistato dopo l'altro? Faccio Strano. attento. Però non ha detto niente, ha pensato un attimino e ha detto: ok, te lo faccio questo favore. Allora quello lì ha preso la chiamata dell'Haftarah di Hannah e tutto il tempio Sai come purtroppo la gente parla, no? La gente parla, ah, ma come si permette questo qui, quel poveraccio tutto l'anno aspettato di acquistare l'Aftarah di Hannah e poi ci teneva così tanto perché è una berachà per avere, se Dio vuole, figli, eccetera, eccetera. Come si permette e così via. Quando quello ha sentito tutto questo, non si era reso conto che era fino a questo punto, tutto questo fomento, tutto questo rumore, eccetera. È andato da lui e gli ha detto: ti chiedo scusa, non intendevo chissà che cosa. Allora lui ha detto: no, no, anzi, ti ringrazio. Dice: come mi ringrazi? Dice: no, perché guarda, io ho provato tutto per meritare la berachà di avere un figlio. Dice: però per ora non ha funzionato nulla, nulla. Solo una cosa non ho ancora provato. Cos'è questa cosa? L'idea di rinunciare a qualcosa per un'altra persona. Secondo me questo sarà un merito. Solo la rinuncia stessa, il rinunciamento stesso. Passa un anno, la storia racconta, e arriva di nuovo Rosh Hashanah. Si incontrano di nuovo queste due persone. Arriva quello che ha preso da quello che ha acquistato l'Aftarah, è venuto da lui, l'altra persona, e gli ha detto: senti, io tutto l'anno mi sono portato appresso questa cosa che ti ho rubato l'Aftarah. Io mi sono già messo d'accordo con il Gabbai che qualsiasi sia il prezzo, io lo acquisto quest'anno l'Aftarah e lo do a te, così almeno mi rimetto a posto quello che ho fatto l'anno scorso. Questo qui gli ha dato un bel sorriso, gli ha detto: non c'è bisogno. Grazie a Dio mi sono nati i gemelli Neanche un quest'anno, due. neanche uno, due. Come per dire, se fosse per il merito dell'Aftarah forse sarebbe nato uno, ma per il merito di rinunciare sono nati due. Cosa c'entra questo con il mondo agricolo? Il mondo vegetale c'è. Nel semplice percorso che accade nel momento in cui avviene la semina e un seme è preso dalla terra per poi produrre qualcosa. Prima della produzione vera e propria, della nascita che avviene poi della radice sottoterra, eccetera, sapete cosa succede? Il seme si ammuffisce e diventa quasi nulla, composto. Non è una cosa che è piacevole sentire l'odore o toccare, sembra uno schifo. Scusate, Siamo fish, è punto. così. E solo dopo questo percorso quel seme può diventare qualcosa. Questo è il rinunciamento, questo è il paragone con la vita umana. Per diventare qualcosa bisogna prima diventare un nulla, bisogna prima rinunciare al proprio ego. E da questo può crescere qualcosa molto più importante di quanto potesse crescere da un semplice percorso. Questo lo vediamo in particolare nel mondo vegetale, ma lo vediamo anche in alcuni aspetti del mondo animale, per esempio nelle uova di un uccello, possiamo vedere questo concetto che il pulcino, prima di formare quello che poi diventerà il pulcino, diventa tutto scuro dentro e dà anche un odore non gradevole. E la cosa più interessante, c'è scritto qualcosa di simile riguardo la creazione dell'uomo. Non la creazione dell'uomo. Nell'uomo, quando l'uomo cerca di creare qualcosa, un'idea, cos'è la più bella cosa che una persona può creare? Una nuova idea, una novità, una scoperta, un'invenzione, un intelletto da un punto di vista diverso, nuovo, eccetera. Questo potete chiedere a tanti geni che sono stati intervistati, eccetera, il momento prima di quella lucidità mentale, di quell'illuminazione, è quasi sempre definito come un momento di caos, di oscurità assoluta nella mente, di confusione, non di chiarezza assolutamente. E da questo caos, da questa confusione, da questa oscurità mentale, poi sboccia, poi nasce, fiorisce qualcosa di nuovo. C'è sempre questo tipo di percorso. In inglese si dice think out of the box, pensare fuori dalla scatola. Cioè pensare in maniera creativa, la creatività. Si definisce proprio così, come la possibilità di distaccarsi dalle norme intellettuali o mentali o comunque sociali che siano, che dettano, si fa in questa maniera, si pensa in quella maniera, si esprime in quella. La creatività nasce proprio dal distaccarsi da quelle norme, dal creare un piccolo vuoto dentro di sé. Nella Gemara, nel Talmud, troviamo vari aspetti di questo concetto, come per esempio si racconta di uno dei Chachamim nel trattato di Shabbat, che gli viene posta una domanda e poi c'è scritto che lui tace per qualche momento. Non è che produce subito la risposta, ma non solamente tace, c'è il termine che si usa, è shtomem, è come quasi, quasi come se fosse stupito, come se fosse... diciamo all'oscuro di cosa potesse essere una possibile soluzione e poi produce la risposta, la soluzione. Troviamo anche una storia nel Talmud interessante di Rabbi Zeira, un maestro che era un maestro babilonese nelle yeshivot di Bavel, della Babilonia, e poi si trasferì in Eretz Israel. C'è scritto che in Eretz Israel, sappiamo benissimo anche dal Talmud babilonese, il Talmud Yerushalmi, che sono forme di studio molto diverse, molto differenti come pensiero e come metodo soprattutto. Ed era difficile andare da questo mondo a quel mondo. Tu vai da un regime di studio a un altro regime di studio, anche se sono metodi molto diversi, non è un passaggio facile. C'è scritto che lui fece dei digiuni per aiutarlo a dimenticare tutto il metodo babilonese, per poter acquisire il nuovo metodo che era quello di Eretz Israel. E solo dopo si è unito agli studiosi di Eretz Israel. Questo si richiede per la crescita. La crescita come si definisce? La crescita si definisce, perché anche prima della crescita già c'è qualcosa. Cos'è la crescita? La crescita è il creare qualche cosa che è più volte più grande, più importante rispetto a quello che c'era prima. Se no, che crescita è? Ovviamente, no? E quindi è la crescita all'interno di una persona è l'aspirazione, la volontà profonda di cambiare drammaticamente, di essere molto migliore rispetto a quello che era prima. Se no, non si può definire come una vera e propria crescita. 100 volte quanto, 1000 volte quanto, cioè dobbiamo pensare a questi livelli. Se no è come se uno dicesse, ho un albero di limone. L'altro anno era piccolo, quest'anno è cresciuto. Ah sì? Di quanto è cresciuto? L'altro anno ha dato 5 limoni, quest'anno ha dato 7. Questa si chiama crescita. La stessa cosa, una piccola differenza, non vuol dire niente. Crescita vuol dire che ha dato 50 kg, allora. Crescita rispetto a quello che era l'anno precedente. Uguale nella persona, spesso il nostro limite è quello di sentirsi così attaccati a quello che siamo, così come lo siamo in quella maniera, che anche quando pensiamo di crescita, pensiamo in termini molto limitati. È vero che bisogna fare passo per passo, eccetera, ma quello è un altro discorso, ma parlo come ideale, non come pratica. Come ideale non può essere troppo limitato. Mi sveglio la mattina e dico, ok, devo crescere, ok, faccio. Qual è l'ideale nella mia mente? Ok, arrivo da 1 a 1 e un quarto. Se l'ideale è, l'idealismo mi chiede di arrivare da 1 a 1 e un quarto, non mi sposto da 1. Non vado da nessuna parte. Perché poi la pratica è sempre minore rispetto all'idealismo, no? Quindi è normale. Allora, ogni tanto noi dobbiamo appunto annullare questo nostro legame, cercare di cancellare il più possibile questo nostro legame con i nostri limiti, con i nostri pregiudizi di noi stessi. Si parla molto dei pregiudizi che alcune persone hanno nei confronti di altre persone, ma non si parla dei pregiudizi che una persona ha nei confronti della propria persona. Darsi anche un'autostima, questo. Assolutamente. Legato anche all'autostima, certo. La Torah ci dà alcuni strumenti per fare questo. Per esempio, c'è nella Torah, c'è tutta una categoria di mitzvot che non sono comprensibili a livello logico, razionale. Allora, noi guardiamo queste mitzvot e diciamo, vabbè, se è quello che mi richiede la Torah lo faccio anche se non lo capisco. È molto bello che lo fai. Però se tu dicessi, invece di dire questo, dicessi, che bello, la Torah mi ha dato uno strumento per uscire fuori dai miei limiti, per farmi capire che non sono necessariamente limitato a quello che credo di essere limitato. Mi dà una spinta, mi fa pensare in altri termini. Mi apre verso altri orizzonti a livello, su tutti i livelli. Livello spirituale soprattutto, profondo, morale. Questo nel nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Anche nel nostro rapporto con altre persone, che sia in ambito familiare, in ambito sociale, eccetera, quando siamo tenuti a rinunciare a qualcosa, come in quell'aneddoto di quel signore che rinunciava a quel merito che aveva acquistato, no? A volte dobbiamo rinunciare a un nostro comportamento, a una nostra abitudine, per il bene di un altro, per la richiesta di un altro, in particolare in un contesto di coppia, di famiglia. Se due persone si sposano non è che possono continuare a vivere esattamente come vivevano prima. Sono costrette queste due persone a fare dei cambiamenti. Ognuno deve rinunciare un pochino di quello che lui o lei era prima. Compromessi. Sono dei compromessi, no? E allora uno potrebbe vederlo come, ok, devo compromettere una parte di me, devo cioè rinunciare ad una parte di me. Non è un vero rinunciamento. È un rinunciare per crescere, per creare un legame molto più profondo. Che non sarebbe possibile se non ci fosse questo tipo di rinunciare, questo tipo di compromesso. Quindi il frutto di quel rinunciamento è un rapporto più profondo, più sentito, più vissuto e quindi più apprezzato. Si potrebbe paragonare al concetto delle rinunce che si fanno per lo Shabbat? Che senso? Cioè, non vedi la macchina. Oh, beh, ottimo esempio. Cioè, una persona per rispettare lo Shabbat rinuncia a determinate cose. Magari è abituato a fumare, non fuma perché è Shabbat. Però non lo prende come una sofferenza. Ma non come una sofferenza, bravo. Perché rinuncia a qualcosa per crescere, per legarsi più profondamente ad HaKadosh Baruch Hu attraverso la mitzvah dello Shabbat. Bellissimo esempio. Il Shabbat è quello che tu rinunci, lo fai. Quello che? Che rinunci, l'effetto tu fai Shabbat. Cioè rinunciando a quello che normalmente fai, crei lo Shabbat. Esatto. Bene, benissimo. Sì, un bel esempio. Anche nel... I maestri ci invitano non solamente, abbiamo detto, in ambito tra il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu, oppure il nostro rapporto con il nostro partner o con la nostra famiglia, ma anche nel mondo, per esempio, professionale. I maestri dicono, fatti un maestro, acquistati un amico. Cosa vuol dire? Cos'è questa istruzione che dicono i maestri nel trattato di Avot? L'istruzione ci sta dicendo, in altre parole, non appoggiarti solamente alle tue stesse idee. Confrontati, chiedi consiglio, ma fallo come se fosse un obbligo, perché sennò potresti sbagliare di brutto, potresti, diciamo, entrare in un ciclo di pensiero che non ha nulla a che vedere con la realtà e pensare di vivere una realtà alternativa. No. Infatti un amico, cioè qualcuno, un amico non solo per bere insieme, per parlare, per confrontarsi, per essere messo una visione più chiara, infatti un maestro, nessuno ha tutta l'esperienza del mondo e la conoscenza del mondo, vuoi intraprendere un determinato percorso, ok? Però consigliati, fatti consigliare, fatti spiegare delle cose. Da chi ha più esperienza, da chi ha già fatto questo percorso, eccetera, eccetera. Cioè, in questo senso, l'uomo deve rimanere sempre un bambino, aperto, curioso, porre domande, cercare risposte. Apertura. La festa di Pesach. Sembra che non c'entra niente, però la festa di Pesach, come si chiama nella Torah la festa di Pesach? Si chiama soprattutto Chag HaMatzot, principalmente Chag HaMatzot, la festa delle azime, la festa delle Matzot. Però noi lo chiamiamo Pesach, non lo chiamiamo mai Chag HaMatzot. Oltrepassare, andare oltre. La Torah lo chiama Matzot e noi lo chiamiamo Pesach. Il Rebbe spiega in un suo discorso molto interessante. Pesach è il momento lo stiamo leggendo in queste parashiot, no? Pesach è il momento della nascita del Am Israel. Il popolo ebraico nasce con la festività di Pesach. Un gruppo di schiavi, lo strato sociale più basso della società, viene raccolto, viene radunato, diventa un unico gruppo e si trasforma in un popolo. Un popolo che riceve la Torah, qualcosa di particolare che accade con questo popolo. Prima di poter diventare quello, come abbiamo detto riguardo il seme, cosa succede prima che inizia davvero a dare frutto? Si annulla, deve annullarsi. Parlavamo di autostima, di altre cose, umiltà. Deve in qualche maniera essere reso umile, deve essere recettivo, in altre parole. Se deve ricevere la parola di Dio, se deve ricevere la Torah, deve potere. Ci deve essere qualcosa sul quale si posa questa parola. Un 10 piaghe, recipiente. miracoli, 10 dopo 10 piaghe, insomma, il miracolo del Mar Rosso, eccetera. E soprattutto tutte le cose che hanno portato, le meraviglie che hanno visto e tutto quanto, ma poi si esprime nella Mazzà. Nella Mazzà che è il pane umile, il pane azimo. Ma questo è non per rimanere sottomessi, perché questa umiltà è perché il prendere atto della piccolezza dell'uomo davanti alla grandezza di Dio fa sì che questo gruppo potesse diventare un vero e proprio popolo che serve Hashem e che ha quindi delle mete, degli scopi che sono grandi, che sono illimitati. E quindi il secondo passaggio dopo Matzah, dopo l'umiltà, cos'è? Pesach. Pesach vuol dire saltare oltre, saltare in alto. Per saltare in alto prima ci deve essere l'umiltà. Bisogna andare in basso, da un estremo all'altro estremo. E la Torah quindi quando dice Chag HaMatzot parla della prima fase di questa formazione di Am Israel e lo chiama, di questo formare questo legame, e lo chiama Matzot. Quando noi diciamo Pesach ci stiamo riferendo al risultato, alla seconda fase, cosa è stato il risultato di quella umiltà, di Infatti, quella mazzà? il primo anno succede, pensa che è stato, Eh? dopo un anno è buona pesa. No, anche il primo anno già c'era il mazzo. No, ma però pesa. C'è un anno per far sì che sia conosciuta la festa di pesa, mi sbaglio, Non dico che ti sbagli, ma non capisco quello che no? intendi. Pesach Allora. già si parla nel primo anno di Mazzot e di Pesach. Mazzotte, non si parla dopo il primo anno, dove è uscita? No, mi sbaglio io. Subito il primo, Prima prima ancora pesca. dell'uscita in realtà si parla di No, questo. dal primo anno, no, era da un'altra cosa. Ah, questo abbiamo parlato a Shabbat di questa cosa interessante che normalmente c'è il miracolo, c'è la salvezza e poi si fa la festa. A Pesach è il contrario. Kadosh Baruch Hu ci ha detto di festeggiare il Seder e poi uscire dall'Egitto. Che parlavamo Shabbat, questa è una lezione molto interessante e carina, cioè sul discorso della fiducia che noi poniamo in Kadosh Baruch Hu. Cioè era quella fiducia che abbiamo, eravamo pronti già a festeggiare il Yetziat Mitzrayim, diciamo l'uscita dall'Egitto, prima ancora che questa avvenga, vero? C'era addirittura l'aneddoto già. della signora che aveva preparato la camera per il bambino pur non avendo Esatto, esatto. Cioè, addirittura già sappiamo cosa avremmo dovuto dire nel tempo ai nostri figli quando Sì, sarebbero sì. nati. E diceva direte ai vostri figli, Beh, eccetera, non c'è eccetera. quella lezione. Ma ancora, no, c'era, vabbè, dico solo questo aneddoto perché lo ricordo anche qui, così Shabbat non c'è la registrazione, ma adesso è registrato, quindi chi sente può. Una storia di due signore che, come nell'altro aneddoto di questa sera, che non avevano possibilità di, non avevano ancora avuto figli dopo tanti anni, eccetera, eccetera, e sono venuti a chiedere una berachà, a uno tzaddik che potesse pregare per loro di ricevere questa benedizione. E allora, in pratica, una delle signore rimasta in stato interessante, ha fatto un figlio e l'altra no. È venuta dal rabbino, ha detto scusa perché io sono peggio di quella che la berachà ha funzionato, per me non ha funzionato. Allora ha detto, beh, no, non lo so, sentiamo un po' cosa ha fatto, qual era il suo comportamento. Ha detto, beh, tu cosa hai fatto? Dice, ma io quando lei, il rabbino, mi ha dato la berachà, io sono andata, ho preparato la stanza, ho comprato il passeggino. Ero già pronta! Fede, emunà. E dice l'altra cosa hai fatto? Beh, io aspettavo che si verificasse e poi avrei fatto tutto. Ha detto, oh, questo è la fiducia, è più di emunà, è bitachon, è fiducia, che è più di fede. È la fiducia che è stata che è stato il recipiente, è stato il posto in cui si è posata la berachà. La berachà, si dice nella Hasidut, è come la pioggia. La berachà è come la pioggia cade, piove, poi dipende su cosa cade, se cade sull'asfalto, cola, cade sul campo, il campo lo assorbe, ma anche lì bisogna vedere cosa c'è in quel campo, chi l'ha lavorato e come è stato lavorato, se è stato arato e seminato, allora con la pioggia ci può essere la berachà. Se uno dice dammi la berachà, dammi la pioggia e poi lascia il campo così, senza farci niente. Chiaro che berachà può uscire fuori da quel campo. È come quello che chiede la berachà per vincere la lotteria, alla fine esce fuori la voce e dice, ma comprati sto biglietto. Compra un biglietto. Quindi siamo sempre lì su quel discorso. Il nostro impegno, aiutati, che Dio ti aiuta, come si dice a Roma, è assolutamente necessario. E prende spunto molto da il Chamisha Asar Bishvat, il 15 di Shevat, che diventa un giorno significativo non solamente per gli alberi stessi, ma anche per l'uomo che per molti versi è simile al mondo vegetale. Allora che potessimo davvero trarre queste lezioni, non solamente in teoria, ma anche almeno un po' metterle in pratica.